Allora, signore e signori, buongiorno. Eccellenza Reverendissima, colleghi parlamentari, Presidente della Giunta regionale, della Giunta provinciale e tutti, un cordiale saluto. Vi ringrazio a nome del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Trentino di Cultura di essere intervenuti a questa semplice, ma abbastanza importante, o quantomeno noi riteniamo significativa, cerimonia. È una cerimonia. Nel senso che questa mattina intendiamo insediare ufficialmente il Comitato Scientifico Permanente dell'Istituto per le Scienze Religiose, ma sostanzialmente significa l'inaugurazione ufficiale dell'Istituto per le Scienze Religiose in Trento. È una delle ulteriori attività di cui si arricchisce l'Istituto Trentino di Cultura. Come sapete, come è noto, l'Istituto Trentino di Cultura, figlio diretto della provincia autonoma di Trento e al quale partecipano anche alcune componenti culturali ed economiche del nostro Trentino, accanto alla sua attività ordinaria, ivi compresa quella ancora ora di gestione dell'università, ha via via nel tempo dato vita a qualche specifica attività culturale, sempre d'intesa naturalmente e in coordinamento con la provincia autonoma di Trento, anche per le sue competenze, di cui l'assessore entra in questo momento e salutiamo. E così l'Istituto Trentino di Cultura ha a suo tempo dato vita, come è noto, all'Istituto Storico Italo-Germanico, che è stato proprio in questa sala anche insediato ed inaugurato nel 1973. Secondo giunge questo Istituto per le Scienze Religiose, la cui data, cioè la data della delibera costitutiva dell'Istituto Trentino di Cultura, risale a dicembre del 1975. Poi vedremo anche brevissimamente la ragione per la quale oggi arriviamo a questa fase iniziale definitiva. Poi una terza, che sarebbe la più recente, è quella della costituzione dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica, la cui insediamento per la verità ha avuto luogo il mese scorso a Roma per ragioni un pochino logistiche, dove il ministro c'era, il ministro eccetera, e l'abbiamo dovuto fare lassù. Comunque avremo modo, io penso, abbastanza sollecitamente di presentarlo ufficialmente anche all'opinione pubblica trentina con un'adeguata presentazione in sede locale. Ecco, dicevo dunque che l'Istituto per le Scienze Religiose è una di queste tre attività specifiche organizzate collateralmente dall'Istituto Trentino di Cultura. Dirò solo così per notizia che anche questo istituto non è un istituto che abbia personalità giuridica propria, come gli altri, come l'Istituto Storico Italo-Germanico, rispettivamente l'Istituto per la Ricerca Scientifica e Tecnologica. Dal punto di vista amministrativo e giuridico fa parte, è tutt'uno con l'Istituto Trentino di Cultura, il cui consiglio di amministrazione è il responsabile di tutta la gestione, chiamiamola così, amministrativo, o gli studiosi a doversi occupare di problemi logistico-organizzativi, ma invece che possano in libertà ed autonomia e senza altre preoccupazioni occuparsi di problemi della ricerca, eccetera. Vi dirò anche che la dotazione dell'istituto è stata di 20 milioni per l'esercizio scorso del 1976 e altri 20 milioni per l'esercizio in corso, oltre naturalmente alle spese di gestione, alle spese di personale o d'altro. Poi il signor Roger dirà poi qualche cosa anche delle dotazioni di cui finora l'istituto si è concretamente arricchito. È nato, come dicevo, con una delibera del 1975 che aveva con indicato lo scopo preciso, che è quello contenuto anche nell'invito, che ha lo scopo di promuovere, incrementare e coordinare gli studi per le scienze religiose, potenziando la tradizione storico-religiosa del Trentino anche in funzione della sua particolare posizione geografica. Questa è, detta con essenzialità, la finalità e lo scopo dell'istituto. Scopo dell'istituto che, come consiglio d'amministrazione dell'Istituto Trentino di Cultura, abbiamo subito dotato di un comitato scientifico provvisorio. Comitato scientifico provvisorio che era così composto, è stato così composto il professor Carmeli, preside del Liceo Scientifico di Trento, l'assessore Guido Lorenzi, qui l'ordine non serve naturalmente le gerarchie, Guido Lorenzi, il padre Corrado Lever, ministro provinciale dell'ordine dei tratti minori, padre Angelico Kessler, ministro provinciale. Questo comitato scientifico provvisorio aveva lo scopo e l'incarico di dare inizio intanto all'attività dell'istituto e poi di predisporre per il consiglio di amministrazione lo statuto definitivo dell'istituto, rispettivamente di provvedere a fare proposte per quanto attiene al comitato scientifico permanente dell'istituto. Tutto funzioni e compiti che il comitato scientifico provvisorio ha regolarmente svolto in modo tale che il consiglio di amministrazione dell'Istituto Trentino di Cultura il 20 giorni fa ha potuto approvare lo statuto così come proposto con una qualche modifica, peraltro più formale che sostanziale, presentato dal comitato scientifico provvisorio. Rispettivamente nominare anche il comitato scientifico definitivo che la cui presentazione farà poi, io prego, il professor Roger molto più appropriatamente di quanto posso fare io. A questo punto, e nel momento in cui si completa e si espleta la funzione del Comitato Scientifico Provvisorio, spetta a me, a nome dell'ITC, naturalmente rivolgere un vivissimo ringraziamento a tutti i membri di quel comitato per la puntualità, l'impegno e la precisione con la quale hanno portato a termine il loro compito. Vi ringrazio vivissimamente. Ecco, ed ora, questo istituto con oggi dovrebbe prendere ufficialmente, questa mattina nel pomeriggio ci sarà, questa è una seduta pubblica, e poi nel pomeriggio ci sarà la seduta interna, la prima seduta del Comitato Scientifico e quindi l'avvio definitivo dell'attività di questo istituto per la ricerca delle scienze religiose, che avrà, questa è una precisazione che sempre si trova via via nei documenti dell'Istituto Trentino di Cultura ed anche dell'Istituto stesso, un carattere di rigorosa scientificità, sia chiaro, di rigorosa scientificità. La matrice dell'Istituto, come vi dicevo, è l'Istituto Trentino di Cultura. Naturalmente nasce insieme alle altre in un certo senso parallelo a quella che è l'attività e quella che è la presenza dell'Università a Trento. Distinto naturalmente, completamente distinto, perché l'Università è una personalità giuridica, non soltanto giuridica, distinta, però dico dal punto di vista culturale, può trovare in un certo senso, viene a trovarsi in una posizione anch'esso parallela alla università, dove potrà trovare alimentazione, provocazione, eccetera, ma soprattutto direi che può rappresentare l'Istituto per le Scienze Religiose anche un momento di confronto, soprattutto relativamente alla completezza della visione culturale, anche dell'università, università che anche così, non solo a questo proposito, ma con il completamento che adesso sembra, dopo la recente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge come via conoscenza e con la presenza che ci sarà anche della facoltà di lettere insieme a tutto il resto, naturalmente penso che così da un punto di vista generale questo istituto troverà modo di rappresentare effettivamente un confronto anche da questo punto di vista e anche forse anche una qualche verifica. D'altra parte, che la componente religiosa sia via via avvertita come più importante e come non disattendibile anche da un punto di vista esistenziale dell'uomo, anche da un punto di vista però sociale e storico, credo che è esperienza comune di noi tutti, anche di tutti così, anche sul piano della cultura, eccetera, eccetera, qui nel nostro paese. D'altra parte, credo che non si stenta ad avvertire se si guarda anche così nel futuro, così avendo una certa sensibilità dalle incertezze estreme che questa, l'evolversi di questa nostra società porta più che certezze, diventa allo stesso tempo una più precisa e sempre crescente esigenza di un avvicinamento, di un approfondimento o comunque una domanda in un certo senso di religiosità e quindi l'esigenza dell'approfondimento anche dal punto di vista scientifico vero e proprio di temi come questi che sono sempre che sono avvertiti direi forse più che in qualche altro momento come ancorati e da ancorare in maniera precisa alla esistenza dell'uomo. Ecco, d'altra parte se pensiamo a come il discorso che attiene alla ricerca scientifica o agli studi scientifici su questo fronte nel nostro paese, in Italia, naturalmente dobbiamo avvertire che, certo, quasi esclusivamente sono stati e sono ancora oggi quasi istituzionalizzati nell'ambiente ecclesiastico, o in sede ecclesiastica o in sede ecclesiale. E la ragione storica, che è abbastanza facile comprendere, nel nostro paese non esiste, come in altri paesi europei, né le cattedre, né facoltà teologiche nelle università come una delle discipline laiche, no? Come una delle discipline come tante altre discipline. Ora, naturalmente questo istituto, sia ben chiaro, non vuole mica rappresentare o sostituire una facoltà teologica, o cioè, non è questo il discorso, ma diciamo, se osserviamo un po' nel nostro paese l'andamento anche di questi fenomeni così importanti, e se d'altra parte vediamo anche in sede locale in questo Trentino Alto Adige, per la sua storia, il discorso e gli studi anche in questo settore hanno delle tradizioni veramente notevoli, hanno delle tradizioni forti, hanno delle strutture che ancora oggi sono importanti, eccetera. Però forse possiamo anche constatare che accanto a sforzi e a fatiche, come dire, unitariamente prese molto, molto eccellenti, però probabilmente anche da noi, anche questo tipo di studi e questo tipo di strutture, di attrezzature, non è poi che forse trovino insieme una coralità di lavoro che sia tale da produrre il massimo dei risultati. Per cui anche un certo discorso, da un lato di ancorarsi localmente a queste tradizioni precise, il raccogliere e il rinforzarle coordinando un pochino tutto questo e sviluppando e completando quello che ancora completo non è, pare a noi che possa essere un campo di attività di questo istituto che da un lato ne giustifica profondamente la nascita e l'esistenza, e dall'altra credo che il contributo è sul piano locale, ma oso dire forse anche non soltanto sul piano locale, non dovrebbe mancare, e comunque credo che sia uno sforzo e che sia un tentativo della cultura e della provincia e di tutti i membri dell'istituto viene fatto, che sia uno sforzo giustificato e che in avvenire possa trovare effettivamente una rispondenza alle volontà di coloro che lo hanno voluto. Ecco, concludo queste semplici parole, ringrazio nuovamente tutti voi, ringrazio i membri del Comitato Scientifico Provvisorio e poi ringrazio fin d'ora, anche dopo la presentazione che farà il professor Roger, i membri del Comitato Scientifico Permanente, ai quali noi, fiduciosi e grati, affidiamo d'ora innanzi questo istituto. Grazie. Allora prego lei, o signore, ecco la presentazione sua è completamente sua. Ecco il professor Sartori, sì, che arrivava col treno. Sì. Non ha avuto ritardo il treno perché sì. Sì, come sapete, dopo questa breve presentazione ancora del professor Roger, poi il professor Luigi Sartori, ecco, ci svolgerà un breve intervento, non una conferenza vera e propria. Sì. Ecco. Il mio compito è di relazionare, di dare un breve resoconto su quella che è stata l'attività del comitato provvisorio di cui sono stato creato presidente e che oggi muore, trasmettendo la sua eredità al comitato scientifico permanente, ovvero quindi un'attività che è stata, volevo quasi dire, costituente, ma piuttosto, siccome la costituzione spetta ed è propria dell'Istituto Trentino di Cultura, di cooperazione a questo atto di costituzione. Riassuntivamente, integrando solo in alcuni dettagli quello che è già stato riferito in proposito, il compito nostro dunque era quello di dare il primo avvio all'attività scientifica dell'Istituto, quello di proporre al Comitato di Amministrazione dell'Istituto Trentino, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Trentino di Cultura uno statuto e quello di proporre la nomina di un Comitato Scientifico Permanente. Il nostro Comitato è stato insediato il 6 aprile 1976, in quell'occasione fu eletto un presidente e due vicepresidenti nella persona del padre Angelico Kessler e della signorina Sassuzelli. È il presidente, naturalmente, il professor Monte. Grazie. L'attività svolta in un anno di vita che ci era predestinata e ci era predestinato e che non è stato procrastinato eccessivamente, come vediamo a distanza di poco più di un anno noi concludiamo i nostri lavori. Una prima serie di preoccupazioni e di decisioni riguardava la sede dell'istituto, che abbiamo sentito subito aveva un certo suo significato, anche perché costituisce un certo biglietto di visita, una certa targa di presentazione. A rigor di termini ci sarebbero state delle sedi comode e anche attrezzate in parte, come per esempio la biblioteca del seminario teologico, che costituiva già un ricettacolo anche per l'attività di studio. Si è preferito invece anche come sede provvisoria, perché di sede provvisoria qui ancora si parla, in attesa di una sede definitiva che potrà venire in armonia col generale assetto logistico dell'università, anche in vista appunto delle novità che si profilano. Ecco, sede provvisoria è stata scelta. Questa sede in cui si trova già opera l'Istituto Italo-Germanico, proprio per sottolineare l'aspetto scientifico, che è quasi un'area neutrale o aperta a tutti, però che l'Istituto come tale professa, e anche per ragioni pratiche per utilizzare alcuni elementi del personale dell'Istituto Italo-Germanico che, avendo già una loro attività specializzata nella biblioteca, potevano darci un prezioso, e ci hanno dato un prezioso contributo in questa fase soprattutto di impianto della biblioteca. Secondo punto in cui si compendia l'attività riguarda appunto la costituzione della biblioteca, che deliberatamente, per decisione consapevole del Comitato, ha costituito il punto privilegiato delle nostre attenzioni. Il Comitato ha rimandato, cioè volutamente, alla fase successiva lo studio di altre iniziative concernenti l'avvio di un'attività scientifica. I criteri con cui la biblioteca venne costituita o viene costituita è stato sottolineato da noi più volte il criterio di complementarietà con le altre biblioteche esistenti a Trento e contenenti fondi appunto relativi alle scienze religiose. Naturalmente una complementarietà che non potrà essere matematicamente specificata. Ci sono dei libri che in ogni biblioteca devono esistere nel rispettivo ramo di consultazione, ma insomma una certa attenzione di non creare dei doppioni con opere soprattutto grandi e costose che esistono già in biblioteche soprattutto religiose della città e che in un domani potrebbero anche venire assunte o in forma di prestito o in forma di acquisto favorevole nella biblioteca stessa. Questa attenzione è stata esplicitamente dichiarata dal nostro comitato e mi pare di poter dire anche sostanzialmente espressa, sostanzialmente esercitata, anche perché i fondi, pur notevoli a disposizione, ma in fase di costituzione ci consentono di mirare soprattutto a cose che non ci sono e che invece hanno un livello scientifico notevolissimo, che quindi non sbagliamo ad acquistare. Così è stato provveduto soprattutto all'impianto di una collezione di riviste specializzate che ammonta al numero di circa 130, di cui siamo in grado di presentare anche l'elenco completo, tra cui parecchie riviste estere soprattutto, che costituiscono un'autentica rarità per il nostro ambiente, anche perché gli stessi istituti religiosi non sono in grado di abbonare determinate riviste di carattere propriamente di ricerca, di indagine molto specializzata, che formano invece oggetto di attenzione di uno studio accademico vero e proprio. Così è stato provveduto all'acquisto di una serie di libri. Circa 2000 volumi sono già inseriti nella biblioteca, catalogati e collocati. Un migliaio di volumi è sopravvenuto in queste ultime settimane e attende ancora il suo ordinamento. Dunque l'acquisto di circa 3000 volumi del tipo delle pubblicazioni, forse dopo loro, se hanno un attimo di tempo a disposizione, possono anche farsi un'idea, perché sono in buona parte, non tutti, ma in buona parte ospitati in queste sale al pian terreno qui alla nostra sinistra, e che stanno aperte a nostra disposizione, e quindi insomma siamo ben lieti se con l'occasione possono vederle un po' direttamente. Ecco, così si è provvisto alla provvista e alla installazione delle scaffalature nel modo che possiamo vedere, ripeto, che rivela uno stato di relativa provvisorietà, ma che insomma consente anche di vivere, di crescere per alcuni anni in questo luogo, direi anche di profittare della fortuna di quest'altra biblioteca dell'Istituto Italo-Germanico, che per uno studioso costituisce veramente un hortus delitiarum, un orto di delizie vero e proprio. Ecco, la terza incombenza riguardava lo statuto. Circa lo statuto e la sua impostazione, noi abbiamo esaminato i vari statuti di istituti consimili, almeno quanto all'Intendi, come per esempio il Centro di Documentazione di Bologna, ma alla fin fine, tenendo conto dell'iniziativa presa dalla provincia, che ha istituito, cioè dall'Istituto Trentino di Cultura, che ha istituito come attività sua l'istituto, e tenuto conto insieme delle difficoltà che troviamo a ricorrere a forme consorziali, a riforme consociative, sia per motivi economici, sia per una maggiore chiarezza di qualificazione dell'istituto, è apparsa praticamente attuabile solo la forma che è stata scelta, della quale sono stati presentati, mi pare, i due cardini fondamentali, cioè che l'istituto non ha una sua autonomia giuridica e amministrativa, che rimane riservata all'ITC, appunto in quanto è una attività dell'Istituto Trentino di Cultura, quella dell'Istituto di Scienze Religiose, ma insieme ha e afferma una sua autonomia scientifica, che è affidata appunto al Comitato Scientifico Permanente. E così ne è risultato uno statuto molto breve ed essenziale, che poteva anche sorvolare su tanti aspetti giuridici, economici, eccetera, vero che formano di solito il prunaio principale degli istituti. Determinando gli scopi, è stato appunto detto che lo scopo è quello di promuovere, implementare e coordinare gli studi per le scienze religiose, e che l'istituto si definisce come un istituto di ricerca che opera in contatto con le strutture universitarie ed accademiche nel campo delle scienze religiose. Accanto a ciò che fu detto, tocca a noi sottolineare, anche perché l'abbiamo sentito e preso di mira in un modo particolarmente esplicito, vero, il criterio, l'esigenza di una attività rigorosamente scientifica. E questo, ne siamo ben consapevoli, intende dire una distinzione, non dico una separazione, una contrapposizione, ma una distinzione dall'interesse prevalentemente religioso con cui i seminari teologici oppure le facoltà di carattere ecclesiale trattano la materia, che appunto viene trattata in vista della predicazione della fede. Dico, siamo ben consapevoli di questo certo atteggiamento, quasi di una certa neutralità, che conviene, converge, si propone anche di ritrovarsi su una piattaforma d'intesa con pensatori di tutti gli indirizzi, però sul piano appunto della serietà e del rigore scientifico. Si distingue perciò anche dall'intento di una divulgazione superficiale, perciò anche facilmente strumentalizzabile. Una formulazione che più di una volta è rimbalzata nelle nostre riunioni è quella che vedeva quasi come modello di questo tipo di rigore scientifico una linea di ricerca storico-filologica. Ecco, e sempre stando, direi, nello spirito di questa impostazione, è stato anche esplicitato il criterio con cui viene a essere eletto e a operare il comitato scientifico. Il comitato scientifico è un po' il portatore di questa autonomia scientifica di cui è stato parlato. E quindi è stato proposto, senza termine di tempo, senza una scadenza fissata per statuto, cosa che sembra consona alla sua autonomia, con la possibilità invece di integrarsi man mano che sono rimasti anche alcuni spazi liberi per una integrazione immediata prossima, oppure quando si ritrovasse necessario, su proposta del comitato scientifico permanente, però che naturalmente propone all'Istituto Trentino di Cultura l'integrazione mediante altre norme. Ecco, in quarto luogo siamo divenuti appunto alla proposta dei nomi che compongono il comitato scientifico e che loro trovano elencati nell'invito che è stato diramato. Per dare un'idea, adesso non vorrei commentare i singoli nomi, ma forse per aiutarci a capire i criteri, ecco, vorrei soffermarmi di più sui nomi coloro che non sono indigeni in questa città. Abbiamo cercato di stendere una mano a nord e una mano a sud per chiedere aiuto. A nord avevamo steso la mano in un primo tempo, in un senso che mi richiama il tenore di una vecchia canzone tedesca, Ich wollte ein Bäumlein steigen, das nicht zu steigen war. Questo albero che volevamo salire e che non ci è stato consentito di salire è nel frattempo divenuto arcivescovo di Monaco Frisinga e cardinale in questi giorni, il professor Josef Ratzinger, che però ci conserva tutta la simpatia e al quale in questa occasione vorrei mandare anche il nostro ricordo. Ecco, però non è successo di noi quello che la stessa canzone invece dice nel seguito, dicendo che i ramoscelli dell'albero si sono poi rotti e che noi siamo rotolati nell'erba. Questo non ci è accaduto perché il padre, il professore Walter Kern, ci ha accolti con le sue braccia generose e è subentrato in questa prima proposta, vero, nella partecipazione reale al nostro comitato. Noi l'abbiamo oggi con noi, lo salutiamo di cuore, perché da un lato egli rappresenta il settore della teologia fondamentale, il campo delle dei problemi filosofici basilari in vista di una riflessione religiosa. D'altro canto è noto per una serie di pubblicazioni molto rispettabili, in Italia è alla, in traduzione italiana è alla quinta edizione il suo libro, il suo libro edito dalle Pauline, Perché credere, Warum glauben, e così una serie di pubblicazioni che lo distinguono. Accanto a questo abbiamo avuto la gioia, nell'incontro con lui, di prendere contatto, direi, con il corpo docente completo della Facoltà Teologica di Innsbruck, rinsaldando legami di amicizia e di comprensione che veramente ci fanno piacere, non solo, ma dai quali ci ripromettiamo anche un aiuto notevole. Innsbruck è così vicino adesso che, insomma, con l'apertura dell'autostrada uno la raggiunge tanto presto, solo che insomma, era nato un certo, una certa distanza che in questa occasione noi riusciamo a recuperare. Grazie. Dall'altra parte, a sud, abbiamo steso la mano sopra l'altipiano dei distretti comuni, per il quale i miei concittadini di Lerico a suo tempo hanno fatto delle battaglie feroci contro i comuni di Roana, eccetera. No? Nativo di Roana è Monsignor Sartori, qua, nostro confinante comunale, affezionatissimo anche alla sua piccola patria d'origine, ma contemporaneamente ormai notissimo docente di ecclesiologia e di teologia ecumenica nella facoltà interregionale dell'Alta Italia, nel seminario di Padova, e presidente dell'Associazione Italiana dei Teologi, uno studioso che si è largamente distinto nella volontà e nella capacità veramente di un dialogo anche con tutti quelli che sono in ricerca in questo settore. Gli altri, a dire il vero, non sarebbero da computare tra i non trentini, perché sarebbe un'ingiustizia. Comunque siamo andati a cercarli fuori dei confini materiali il professor Ezio Franceschini, il mentore di grande parte del nostro studioso, nel quale, come dico, noi non riconosciamo un estraneo, ma invece un esponente dell'anima trentina, della nostra tradizione, di cui si è fatto verbo prima, e insieme, come mente di studioso, un modello di ricerca appunto filologico, storica, estremamente piena di abnegazione, estremamente seria, sulla quale effettivamente si può costruire. Anche a questo ideale noi abbiamo pensato nel pregarlo di accettare, cosa che gli ha fatto con sacrificio, bisogna dire, vantando la sua età, le sue condizioni di salute, per le quali noi vogliamo certamente sperare da guardare il meglio, perché finché egli è in mezzo a noi, noi siamo veramente incoraggiati e sostenuti, per i motivi che ho detto e anche per una cosa che qui vorrei ricordare, anche per i suoi meriti patriottici nel tempo della Resistenza e insomma il suo atteggiamento esemplare di cristiano anche in tempi difficili. E poi non annovero tra i forestieri neppure il padre Wilhelm Ecker, docente del seminario vescovile di Bressanone, biblista specializzato in studi del Nuovo Testamento, anche perché della famiglia cappuccina, perché proposto appunto dal provinciale dei cappuccini che faceva parte del nostro comitato provvisorio, e perché insomma noi non lo vogliamo considerare forestiero, insomma qui anche la parte. Ecco, per gli altri nomi posso anche abbreviarmi la strada, gli altri sono noti, ecco, oltre che autoctoni. Il padre Germano Pellegrini, dottore in Sacra Scrittura, è attualmente padre guardiano a Borgo, ma dovrà trovare anche il tempo di riprendere il suo interesse e ampliarlo nel campo della teologia. La dottoressa Tizia Sassudelli rappresenta in mezzo a noi il mondo femminile e il suo, direi, insieme, il suo tipo di sensibilità e di ricerca. Il professor Zani è docente di esegesi neotestamentaria presso il Seminario Teologico di Trento e il professor Creci, che purtroppo devo scusare perché non è presente oggi in mezzo a noi, è da tempo naturalizzato fra noi, è stato parroco a Regnana, tra l'altro, che adesso è localizzato a Mezzo Corona, come esperto di esegesi dell'Antico Testamento e conoscitore formidabile del mondo filologico delle lingue antiche, bibliche e latine. Al momento si trova in patria, lui è oriundo da Praga dove c'è la famiglia, e in questi giorni ha ottenuto, dopo lunga attesa, il permesso per potersi recare a trovare i suoi, e è proprio spiacente di non poter essere con noi in questa giornata. Ecco, poi c'è ancora il sottoscritto sul quale superfluo. Il segretario è il professor Gianni Menestrina, che molti di loro conoscono. E molti no, per le sue doti. Come docente in ginnasi, licei, insomma in scuole pubbliche a Trento, dove lui esercita da diversi anni, suscitando un certo interesse tra i suoi discepoli, cosa incredibile, per questioni filologiche sul Qumran e insomma temi di questo genere, autore di una serie di scritti, di articoli e di ricerche che insomma dimostrano veramente la stoffa di un giovane studioso capace di sacrificarsi per questo tipo di studi e deciso anche a ogni costo a dedicare a questo tipo di ricerca. La scoperta dell'Istituto. Certo qual modo. Sì. Ecco, non so fino a che punto tocchi al sottoscritto fare dei pronostici o delle previsioni, o delineare delle linee, delle piste circa l'attività prossima e futura dell'Istituto, anche perché volutamente lo statuto nostro descrive tutto questo in termini molto larghi. Non crea un binario fisso determinato che dice l'attività dell'Istituto è quella di determinati corsi che cominciano tal giorno, finiscono tal giorno, hanno tante lezioni, eccetera. Volutamente, ripeto, la descrizione del campo possibile di attività è stata delineata nel modo più largo possibile, sostanzialmente profilata così. Dunque, compito, oppure campo di attività dell'Istituto è la promozione della ricerca, l'organizzazione di seminari e di incontri, l'organizzazione di corsi e la pubblicazione di studi e ricerche. Queste sono piste che, insomma, possono comprendere tutto e che daranno modo, io penso, di tagliar fuori, di determinare strada facendo quel boccone di attività, quel settore che in quest'anno, in questa situazione, man mano che le condizioni maturano, insomma, si rende utile e opportuno. E questo formerà l'oggetto dell'attenzione, in particolare della sessione di questa sera, della riunione di studio, però, dove adesso comincia la riflessione più dettagliata, più precisa, e anche, diciamo pure, il lavoro più faticoso da un lato e più direi esigente di fantasia anche un po' dall'altro, però affidato al comitato scientifico, al quale insomma il comitato uscente non può che bene augurare e auspicare meglio il migliore successo. Allora ringraziamo vivamente il professor Roger per tutta questa esposizione precisa, ma soprattutto la ringraziamo, Monsignore, per l'attività che ha svolto come presidente del comitato scientifico provvisorio, che naturalmente è stato l'autore di tutto questo fin qui. Ed ora diamo la parola senz'altro al professor Sartori, il quale, anche come primissimo contributo pubblico, direi, dell'Istituto per le Scienze Religiose, ora ci intratterrà sui indirizzi attuali della teologia in Italia. Mi sono stati imposti i limiti di un quarto d'ora. a parlare della situazione teologica italiana, viene da pensare di dover fare un allunaggio, scendere sulla luna, trovare il deserto, trovare il silenzio, i crateri che richiamano forse un lavoro del passato, dove si potrebbe quindi pensare di trovare il nulla. In realtà, andando un po' più seriamente a guardare, a leggicchiare, a rovistare, si trova che c'è qualche cosa. E allora io scandirò, nonostante lo scherzo dell'allunaggio, terrò sulla situazione italiana con sei piccoli punti, quasi delle schegge, in progressione verso la risposta finale alla domanda: quali sono gli orientamenti oggi della teologia in Italia? La prima scheggia è una specie di scusa. L'Italia non è una patria teologica, è un continente teologico. A motivo di Roma. Roma ha monopolizzato tutte le risorse teologiche dell'Italia, istituendo e realizzando tutte quelle facoltà teologiche e quegli istituti ecclesiastici che sono, più che a livello nazionale, a livello internazionale. Ha assorbito, anche se poi ha reso qualche cosa l'Italia, ma diremmo ha piuttosto assorbito, di modo che l'Italia è stata quasi depauperata a questo motivo di risorse e di forze teologiche. È un continente più che una patria, quindi è il luogo di molte patrie teologiche. Però a questo primo livello di osservazione io già introduco due orientamenti che intravedo. Il primo: anche Roma a livello teologico sta diventando una chiesa locale. Anche Roma, mantenendo il primato su tutte le chiese, sente il bisogno di rafforzarsi come chiesa locale, e le facoltà romane stanno orientandosi a diventare facoltà di Roma, e quindi della chiesa locale di Roma, diciamo della chiesa locale italiana. L'introduzione della lingua italiana nelle facoltà romane ha ridotto il numero degli stranieri e ha fortificato la presenza di italiani sia tra i docenti che tra gli alunni. Quindi è prevedibile che l'orientamento futuro delle stesse facoltà romane diventerà un orientamento che fruttificherà di più per la stessa teologia italiana. Una seconda pista di orientamento di Roma è il sistema delle affiliazioni, questi ombrelli protettivi e anche stimolativi, per cui parecchi centri teologici italiani si collocano all'insegna di qualche facoltà romana. Pensiamo a Bologna, mi pare tenda a orientarsi verso l'Angelicum, comunque all'Angelicum è affiliato l'Istituto Teologico di Bari, le scuole marchigiane al Laterano, Firenze alla Gregoriana. Un sistema quindi che diventa sempre più stimolatore di una presenza della teologia a livello veramente italiano. Se queste due osservazioni si collocano anche nell'ambito di una tendenza di generare istituti di ricerca specializzata, pensiamo all'Istituto Liturgico, all'Istituto Patristico, allora ecumenico, noi vediamo che lentamente una certa prospettiva di stimolazione per la crescita della teologia italiana proprio da Roma, che prima era quasi estraniata all'Italia, si può veramente sperare. Seconda scheggia: l'editoria italiana. Anche questa è passata attraverso parecchi stadi. Direi la prima grande stagione è stata quella degli editori pontifici. Chi non si gloriava di questa etichetta? Marietti, eccetera. Gli editori di libri liturgici, delle attività della Santa Sede. Però lentamente questa attività editoriale si è come frastagliata e ha generato un complesso di tante altre case editrici che hanno realizzato il merito di divulgare almeno in Italia la teologia prodotta altrove. Diremmo c'è quasi un'esuberanza di case editrici. Forse dopo i primi editori pontifici sono sorti quei gruppi editoriali che affiancarono l'attività dell'Azione Cattolica, pensiamo soprattutto ai laureati cattolici, le editrici studi, i primi dizionari italiani di teologia dogmatica, di teologia morale, di teologia biblica, sono usciti da quelle fucine, e poi le altre famiglie religiose che hanno sentito l'apostolato anche teologico, per cui abbiamo una crescita numerica e anche qualitativa di case editrici che di fatto hanno realizzato un immenso boom, diremmo, teologico nell'Italia, soprattutto post-conciliare. Non c'è quasi teologo straniero che non senta la nostalgia di vedere i propri libri tradotti e divulgati anche nella sede italiana. Che cosa noto di nuovo, di originale, anche in questa seconda scheggia o seconda pista? Anche qui due cose. La prima, progressivamente, dopo un primo momento dedicato soprattutto alla divulgazione, alto o bassa, non stiamo qui a fare delle domande critiche per rispondere a questo tipo di discorso, dopo questo momento di divulgazione, lentamente è maturata a livello di coscienza teologica italiana una certa esigenza anche di produrre il proprio. E proprio di questi ultimi anni la uscita o la prospettiva di lavori prevalentemente italiani. Pensiamo all'ultimo recente dizionario teologico che è stato quasi del tutto composto da autori italiani ed è in programma un'altra serie di dizionari teologici. L'altra significativa pista di rinnovamento è costituita dal fatto che ormai anche le cosiddette case editrici laiche, non cattoliche, stanno avvertendo il bisogno che nasce in Italia del libro religioso e del libro, diremmo, scientifico, religioso-scientifico. Per cui non c'è quasi casa editrice laica, dalla Feltrinelli, dei Naumi, alla la terza, che non abbia anche il suo settore del libro religioso e parecchie collane anche scientifiche di libri teologici o di libri storici religiosi vengono fuori anche da questi settori. Ecco quindi una doppia, diremmo, linea di sviluppo che si nota anche a questo secondo livello dell'editoria. Terza scheggia, terza pista di orientamento, le riviste teologiche. In Italia, oltre le facoltà romane, chiaro, sono sempre state abbastanza vivaci alcune tradizionali riviste teologiche, penso alcune orientate alla rinascita tomista dal secolo scorso ad oggi, di Gus Thomas di Piacenza e poi soprattutto la Scuola Cattolica di Milano. Ma oggi la stagione delle riviste si può dire che è cresciuta con molte difficoltà economiche, qualche rivista boccheggia, qualcuna ha soltanto il merito di presentarsi, dietro non c'è, o di sotto non c'è niente, quasi che la sostenga, riviste che macinano direi un po' di prodotto, ma senza avere dietro veramente o istituti o centri culturali. Comunque si avverte il bisogno di moltiplicare questi strumenti di fermentazione e di sviluppo della teologia in Italia. E ecco, allora, all'interno di questo movimento di riviste che nascono, noi possiamo notare veramente un'accentuazione nel moltiplicarsi di queste riviste di attenzione alla specializzazione e, secondo, di attenzione alla valorizzazione delle tradizioni locali. Direi i due orientamenti principali nella fioritura di riviste oggi è proprio questa, una uscita dalla genericità e una tendenza a focalizzare gli obiettivi di ogni rivista intorno a determinati specifici campi, ecumenico, storico, e soprattutto il secondo orientamento a rivalutare le tradizioni locali o regionali di una data fascia di senso religioso, di letteratura teologica. Quarta pista, quarta scheggia. In Italia finalmente hanno cominciato a darsi consistenza le cosiddette associazioni teologiche. La parola teologica è diventata una genericità. Anche prima si poteva dire che si chiama l'associazione della quale io sono presidente, Associazione Teologi Italiani, in fondo è l'associazione di dogmatici. In realtà in Italia ne abbiamo parecchie di queste associazioni, la più ormai consolidata è quella dei biblisti, poi c'è appunto quella di teologi dogmatici, quella di moralisti, quella di liturgisti, quella degli storici della Chiesa, di giuristi, eccetera. Ebbene, questo fatto, specialmente nel post-concilio, è servito a maturare una coscienza teologica nell'ambito del cristianesimo italiano, che sente il bisogno ormai di una riflessione seria e scientifica sulla propria fede. Come si diceva prima, al momento della pura predicazione o della divulgazione in pillole del patrimonio di fede cristiano, si subentra adesso il momento di una riflessione più tecnica, più scientifica, più lenta, forse più astratta, più neutra se volete, ma che serve molto a dare incisività poi al discorso teologico. Ebbene, queste associazioni ormai hanno educato delle generazioni di teologi abbastanza, diremmo, notevoli. La più ormai consolidata, come ho detto prima, è quella di biblisti. Abbiamo dei biblisti italiani ormai che hanno prodotto e stanno producendo delle cose veramente notevoli. La nostra dei dogmatici è ancora un po' più recente, abbiamo avuto le nostre perplessità e difficoltà, comunque un certo orientamento, posso dirlo per esempio anche dell'ultimo congresso nazionale italiano tenuto nel gennaio scorso, abbiamo notato con gioia l'emergere veramente di una nuova schiera di giovani teologi che promettono, oggi ancora non hanno un nome, non fanno chiasso, ma sono veramente delle speranze per il futuro. Poi non parlo di moralisti, che anch'essi forse con maggiore incisività, dato che la loro stessa materia li obbliga a prendere in considerazione problematiche attuali della vita italiana, hanno preso una certa loro rilevanza nell'ambito del pensiero cattolico italiano. Anche quindi a questo quarto livello posso dire che qualche cosa si sta muovendo in Italia. Quinto e penultimo punto, possiamo però notare in Italia un tentativo di sopperire a quella carenza di facoltà teologiche nelle università italiane che è uno dei motivi del sottosviluppo teologico dell'Italia. Pensate quando nel convegno romano dell'anno scorso, del novembre scorso, il professor Lazzati ebbe a uscire con quel famoso lamento per il quale sottolineava, pensate, l'unica università cattolica del mondo che non ha una facoltà teologica. E tra parentesi diceva, quando è sorta questa università cattolica, l'esclusione della facoltà teologica non fu per colpa della Chiesa. E oggi, se si mantiene orfana o vedova della facoltà teologica, non è per colpa dello Stato. In Italia noi non abbiamo le facoltà teologiche dentro le università, quindi il dialogo teologia e cultura, quel dialogo che alimenta veramente la teologia e quindi anche direttamente la fede, per forza è carente in Italia. Allora ecco il problema per l'Italia, di sopperire a questa carenza in vista di un'eventuale ristrutturazione delle stesse università per ospitare di nuovo la facoltà teologica al proprio interno, ecco lo sforzo, diremmo, di sopperire con delle soluzioni alternative. E qui elenco soprattutto due soluzioni alternative. La prima, il rafforzarsi o di dipartimenti di scienze religiose nell'ambito dell'università o la creazione di centri di studio religioso. I più significativi sono quello di Bologna, di cui si è parlato prima, il centro di documentazione istituito inizialmente dal gruppo di Dossetti e poi il Dipartimento di Scienze Religiose dell'Università Cattolica di Milano. Centri di studio e di ricerca che in qualche modo sopperiscono la carenza, la mancanza di facoltà teologiche nell'ambito dell'università. Una seconda linea di supplenza, per così dire, a questa mancanza di facoltà teologiche è costituita da quella articolazione di alcune cattedre, di alcuni indirizzi che sono più particolarmente capaci di orientare la ricerca anche nell'ambito religioso. Nelle nostre università italiane, per merito di parecchi studiosi, si può dire che qualche cosa di teologico è stato prodotto anche dal punto di vista di ricerca storica rilevante, sia nell'ambito delle cattedre di letteratura, sia nell'ambito della storia, delle cattedre di storia, e poi anche nell'ambito delle cattedre di filosofia. Grosso modo potrei dire così: in seguito alla preponderanza della presenza dell'idealismo in Italia, è stata soprattutto la corrente spiritualista figlia dell'idealismo in Italia, pensiamo al nostro professore di Padova, professor Stefanini, che, e poi a Genova il professor Sciacca, attraverso questa istanza di matrice idealistica, purificata e bagnata, diremmo, nello spiritualismo cristiano, si è mandato avanti il discorso di una presenza del pensiero cristiano attraverso appunto il discorso spiritualistico, attraverso la presenza delle tematiche religiose nel momento prevalentemente filosofico. Direi che oggi questa linea sta tramontando, invece è riemersa una linea più congeniale alla teologia ed è quella appunto rappresentata dalle scienze positive storiche, dalla letteratura alla storia della Chiesa. E in parecchie università le cattedre di storia della Chiesa si sono moltiplicate a studiare non soltanto i fatti storici, ma le dottrine. E possiamo segnalare, posso segnalare, se la mia memoria non mi tradisce, che almeno due sono le recentissime cattedre di storia della teologia che sono entrate nelle università italiane, una a Bologna e una a Lecce. E attraverso questi espedienti, se volete, l'insegnamento e la presenza della teologia nelle università ha potuto e può avere una propria consistenza. Tutto questo discorso, però, come vedete, è un discorso di alternativa e di supplenza. Fatta questa carrellata di cinque, diremmo, fronti dai quali io vedo emergere un po' di primavera della teologia italiana, concludo con le piste di indirizzo, di orientamento che io intravedo nella presenza teologica in Italia. Ecco, schematicamente anche qui sono cinque gli orientamenti che io vedo prevalenti. Il primo è spiegabile dalla natura di quel discorso storico e panoramico che vi ho fatto: c'è un orientamento di immediato servizio alla pastorale. È chiaro che questo orientamento della teologia globalmente in Italia è un atteggiamento che può portare a un declassamento della teologia. Quando la teologia si abbassa a dare una mano alla pastorale, alla predicazione, pensiamo alle riviste catechetiche, pastorali, eccetera, liturgiche, allora si ha l'impressione di una teologia un po' di seconda serie, di serie B, ma come chiunque gioca in serie B tende ad arrivare poi in serie A, si gioca anche per arrivare alle prime vette della classifica, così abbiamo dall'altra parte una lievitazione della stessa pastorale, che diventa sempre meno praticistica, sempre meno pragmatistica, e sente sempre più il bisogno di, direi, di coscientizzarsi, di riflettere su se stessa, e allora per una specie di feedback la stessa pastorale incita la teologia a risalire. E io intravedo in questo orientamento di alleanza tra la teologia e la pastorale un mezzo attraverso il quale, se in un primo istante, in un primo momento la teologia si abbassa, in un secondo istante, la teologia sarà provocata a rialzare tutto il tono della vita italiana. Un secondo orientamento, anche se timido, lo si è fatto nell'ambito della nostra associazione teologica, i moralisti lo fanno forse più fortemente di noi, lo si fa nei dipartimenti di Milano, nel centro di Bologna, è lo sforzo di dialogare con la cultura. È chiaro che in Italia è un po' più difficile che altrove, perché la stessa cultura italiana non è vicina fisicamente anche ai luoghi dove si elabora la teologia. In un recente congresso dei filosofi italiani io ho avuto addirittura il coraggio di accusarli, i nostri stessi filosofi cattolici italiani, di non fare loro, nemmeno loro, il primo passo, perché la teologia diventerà sempre più sensibile alla cultura italiana se la stessa filosofia italiana sarà più attendibile, più accessibile alle istanze culturali della stessa Italia. Comunque, un secondo orientamento di questo tipo io lo intravedo in alcuni centri, in alcuni valori. Terzo, addirittura, specialmente in quei centri che ho indicato, questo lavoro lo si fa a livello interdisciplinare. È vero che la ricerca interdisciplinare è ancora ai primi passi, e in molti casi, in molte istanze, ci sono anche delle crisi. Io vengo dall'altro giorno, l'altra sera, un incontro interdisciplinare, una specie di piccola debacle, quanto è difficile mettere insieme prospettive diverse e realizzare un efficace, autentico e genuino lavoro interdisciplinare. Ecco, in molti centri ormai questo tipo di discorso lo si affronta in pieno, a rischio anche di perdere tempo nelle premesse metodologiche. Una quarta istanza, è quella forse che più è consona al vostro centro qui di Trento, è l'istanza di una ricerca storica locale, una rivalutazione della tradizione passata. Questo io lo vedo soprattutto nell'Italia meridionale. A livello anche di ricerca teologica, l'Italia meridionale è orientata a sentirsi, a ricercare perlomeno di una identità specifica. Bari, Napoli, sapete perché sbaglio Napoli? Perché il migliore mio amico che lavora a Napoli, il teologo, si chiama Milano. A Napoli e nelle Sicilia c'è tutto un fervore oggi, anche teologico, di riscoprire le proprie tradizioni, che in Italia avranno un senso veramente grandissimo, perché la nostra Italia meridionale è un ponte ecumenico verso l'Oriente e verso le altre religioni, non soltanto verso l'Oriente ortodosso, ma anche verso le religioni, soprattutto la religione musulmana. E allora noi vediamo adesso la rivista Teologo, che non c'è nel vostro elenco, la rivista Oriente Cristiano, che non c'è nel vostro elenco, la rivista di Bari, si chiama Nicolaus, che non c'è nel vostro elenco, sono tutte riviste che hanno questa passione in comune di riscoprire la propria vocazione e la propria identità. Qualche cosa si fa anche nell'Italia centrale, studia Picena, ora questo vostro centro sia orientato a questo tipo di riscoprire una propria vocazione, ma identificandola nella propria tradizione, nella propria storia del passato. Ultimo punto, l'ho tenuto come la crema, c'è in Italia addirittura a Milano, la Facoltà Teologica di Milano, ecco, una volontà di costituirsi anche come centro di ricerca critica e metodologica. Cioè c'è un centro, permettiamo che ci sia questo centro, anche se ha un po' di aristocrazia nel suo spirito, il quale invece di produrre molto sul piano dei contenuti e della storia, si mette in attesa di altre produzioni e vorrà verificare la metodologia e criticamente interessarsi delle basi teologiche di fondo di tutto il lavoro teologico italiano. È una pista un po' aristocratica, ridotta di alcuni amici di élite, ma comunque anche questa fa parte di un tipo di discorso del cammino teologico italiano. Vedete, l'allunaggio non ha trovato soltanto dei deserti, dei silenzi, c'è un po' di primavera. Io mi auguro che anche questo piccolo orticello di primavera, non soltanto dia verde, ma anche dia frutti. Un po' di poesia finale. Grazie a professor Sartori per questa sua illustrazione, questo suo scenario che ci ha descritto della situazione in Italia, non soltanto per la precisione, ma anche con le finezze con la quale l'ha condita, e mi pare che oltretutto questo serva anche un pochino a noi per lasciarci almeno convinti che su questo scenario, così, sul quale adesso ci accostiamo e ci presentiamo timidissimamente anche noi, attraverso uno dei filoni, uno dei sei che lei ha identificato, e auguriamoci che tutti insieme, o in forma di supplenza o in, come espediente, non interessa, l'importante è che un contributo in questa direzione venga anche da noi potuto portare avanti. Io ringrazio nuovamente tutti voi, ringrazio per questo vostro intervento, ma direi lo ritengo un primo atto collaborativo ad una iniziativa e ad una impresa che naturalmente per molta parte si alimenterà dall'aiuto del comitato scientifico dell'organizzazione, ma che senza una presenza, una partecipazione ed una collaborazione più vasta, ed è possibile a Trento ed è possibile in provincia Trento e in provincia di Bolzano, certamente approderebbe a poco. E quindi, ritenendo, ripeto, questo un primo atto collaborativo, vi permetterei di dire: badate che l'iniziativa adesso è tutto, è a disposizione della comunità trentina, è a disposizione della comunità altoatesina, approfittatene, fatela conoscere negli ambienti, perché poi non è forse così facile, e soprattutto date una mano laddove è possibile. Grazie a tutti di nuovo.